Abbiamo il piacere di essere qui con Katia Giampaolo, direttrice di Estragon. Prima di partire con l'intervista ci tenevo a mandare un grande abbraccio alla famiglia Romagnoli e a tutta Garrincia, perché Matteo è stato un pioniere e siamo contenti che sia tutto partito dalla città di Bologna, ma ha fatto una trasformazione incredibile per la musica in tutta la nazione, in tutta Italia. Botanique Bologna tiene quest'anno la sua 12ª edizione, che parte domani, venerdì 16 giugno. Sarà un'estate piena di musica e grandi nomi della scena musicale nazionale ed internazionale. Volevo chiederti quali sono gli ospiti, tra i tantissimi che ci sono, quelli proprio imperdibili. Mi piacciono tutti, credo che sia una bellissima edizione, quella del 2023. Sicuramente non per affetto, ma per presenza costante all'interno delle nostre manifestazioni, sia Estragon che Bologna Live, che Botanique, cito l'inaugurazione con Cristina Donà, poi gli Africa Unite, sicuramente da non perdersi Harry De Luca col suo spettacolo teatrale, ma poi abbiamo anche Giancane, abbiamo Sic Tamburo, gruppo Compay Segundo. Credo che questi siano tutti spettacoli che non si possono assolutamente perdere all'interno di questa manifestazione del Botanique di quest'anno. Parte interessante di questa 12ª edizione di Botanique è Europa Vox. Vuoi introdurci un po' di cosa si tratta? Assolutamente, Europa Vox è un progetto di cooperazione internazionale che unisce 7 paesi europei: Italia, Francia, Belgio, Austria, Croazia, Lituania e Romania. L'obiettivo della piattaforma è quello di promuovere le band emergenti da tutta Europa, band che magari nei paesi di riferimento sono già emerse ma che da noi sono completamente sconosciute, e avremo due giornate, il 23 e il 24 di giugno, sempre in abbonamento. I due artisti italiani di punta saranno Indian Wells e Aereo, mentre ospiteremo dalla Romania il pianista Misha Blanos e Zimbu, avremo l'hip hop di Petit Noir dal Belgio, avremo il leader dei Mogwai, Stuart Brightwhite, che ci presenterà il suo progetto solista, che arriva dalla Scozia, Mannequins, che è manichino in francese, e poi avremo il rock dei personal trainer, che arrivano dall'Olanda. Una domanda di curiosità personale: questa cosa che fate a Botanique anche negli altri paesi si svolge? Assolutamente, sono 7 festival itineranti, ogni paese ospitante, grazie al lavoro del proprio partner, presenta almeno 8 realtà da 8 paesi diversi. Per quanto riguarda invece l'accesso, volevo chiederti come quest'anno invece si accede e se esistono anche degli tipi di abbonamenti. Quest'anno, a differenza degli anni precedenti, abbiamo adottato una formula che usavamo in passato alle edizioni estive di Estragon Summer Festival, che è quella dell'abbonamento, e quindi con l'acquisto di una tessera che costa 10 euro si accede a tutti i concerti organizzati da Estragon. Non è una tessera a cui va aggiunto un biglietto singolo, ma è una tessera generica, e quindi faccio un esempio: si viene domani sera a vedere il concerto di Cristina Donà, che è l'inaugurazione, con la stessa tessera si può accedere a tutte le altre serate organizzate da Estragon. Chiaramente rimangono escluse quelle organizzate da promoter terzi. Dal 2019 Botanique è completamente plastic free, siamo assolutamente orgogliosi di questo perché siamo stati pionieri, siamo contenti che molti abbiano seguito le stesse orme nostre, non c'è nessun tipo di plastica monouso, quindi i bicchieri sono in policarbonato espanso, quindi riutilizzabili, in cauzione, si possono tenere o restituire alla fine della manifestazione o alla fine della giornata stessa, tutti gli utensili utilizzati dalla cucina per la distribuzione degli alimenti sono biodegradabili, da conferire nell'organico, ci tengo a dirlo perché spesso le persone non sanno dove mettere gli scarti del cibo a livello di contenitori, quindi non c'è nessun tipo di fruizione della plastica all'interno della nostra manifestazione. Noi ti ringraziamo, sei stata gentilissima e non vediamo l'ora di trovarci tutti insieme a Botanique Bologna, che inizia domani.